Milano. Lei di torinesi, falsi e cortesi, però si dice che no, si no, ama. No, no, no, cortesi, cortesi. Ecco. Ah, no, no, da mia sorella, dice, la vuoi improverare tua madre? Ecco, c'è un detto in piemontese che dice, quanca l'om sfatera, la donna la vembela. Non ce ne ho ecco. Uno marchigiano, mannaggia. Lorenzo, ci racconti un po' la tua storia, perché cade, come si dice in marchigiano, a cocco di pippa? Dei veri e propri gatti di mare. E questa? Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Anastasia, mia cara. Ecco qua, lo dicevo io che era la mia. È proprio la mia misura. Io l'ho detto subito che era la mia. Appena l'ho vista ho detto. Oh, beh, ecco, forse ho il piede un po' gonfio, sapete com'è, dopo aver ballato tutta la notte. E forse io posso aiutarvi. No, no, nessuno potrà più aiutarmi. Ma vedete, io ho l'altra scarpetta. Vi ricordate la favola di Cenerentola? E vi ricordate sicuramente le sorellastre Anastasia e Genoveffa che per infilare i loro piedoni nella scarpetta non esitano, su invito della madre, a tagliarsi dita e un calcagno? Bene, era una favola, ma a volte la realtà supera la fantasia. L'avrete letto anche voi. Questa notizia arriva dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, dove si dice che le donne, pur di sfoggiare un bel paio di tacchi a spillo, sono disposte a farsi accorciare le dita dei piedi. A me viene male solo a pensarci. Non so che cosa ne pensate voi di questo intervento, ma anche dei vostri piedi. Vi piacciono? Siete tra coloro che si fanno il selfie e lo postano su Facebook, oppure cercate di nasconderli? Ma oltre a dirmi cosa pensate dei vostri piedi, oggi ditemi cosa dicono loro a voi. Si lamentano? 800 24 00 24. Potete, come sempre, lo state già facendo, scriverci al 349 238 6666. In linea con noi il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno Nico, buongiorno a tutti. Dottor Respizzi, vuole commentare questo intervento da Cenerentola chiamato Perfect 10, che è uno dei tanti segnali che ci fa pensare che il mondo vada un po' al contrario, dove non sono le scarpe a doversi adattare ai nostri piedi, ma i piedi alle nostre scarpe? Posso dire delle parolacce? Ma veda, dire parolaccine. Mi trattengo. Cioè, qui siamo veramente al delirio più assoluto, ma d'altro canto non ci si può stupire di nulla. Io penso che siano delle iniziative sulle quali i medici sono molto responsabili eticamente di fare delle proposte che poi vengono evidentemente ben pagate, delle proposte che non hanno nulla di medico, ma che sono semplicemente speculative. Cioè, andrei giù proprio piatto piatto così, Nico, io guardo qua i valori, ho letto il sito di questi che parla di queste cose, cioè migliaia di dollari per farsi modificare la forma del piede, cioè sì. Vabbè, tutto, però insomma, per tagliare un po', per accorciare il dito, oppure per allungare l'altro, per mettere dei cuscinetti. Cioè, insomma, a un certo punto mi sembra che si stia veramente raggiungendo dei limiti che sono molto molto patologici, psicotici. Una persona che decide di farsi fare una cosa di questo genere ha bisogno sicuramente di un sostegno psicologico, perché non si accetta, e che dei medici avvallino queste richieste speculandoci anche su, mi sembra una cosa veramente imbarazzante, insomma, per la mia categoria. Insomma, se ce lo dicesse un'amica, le diremmo fatti vedere da uno, ma bravo. Esatto, ecco. Brava, ecco. Ma non un ortopedico. No, ma uno bravo. Un cervellologo. Tutto già lo so, vorrei provare anche a ballare e camminare su quei... Come si chiamano? Ah, chi è? Con le mie pinne non si può fare, vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per là. Ma come si dice? Strada. Allucinante. Alice, Illice, Trillice, Pondulo e Mellino sono le dita dei piedi, sembrano i cugini dei sette nani, invece sono proprio loro. Allora direi che prima di tagliarle questi le dita, infatti un ascoltatore, Massimo da San Gimignano, dottor Respizzi, ci scrive: farebbero meglio fare una bella trasfusione di neuroni. Magari si potesse. Allora, non tagliamo le dita dei piedi, ma diamo loro qualche chance. Dalla punta dell'alluce al tallone, passando naturalmente per le dita e l'arco plantare. Oggi protagonista della nostra puntata, l'avrete capito, è il piede, i piedi. Questa è una bella occasione per occuparci di quelle che noi generalmente, dottor Respizzi, chiamiamo estremità e che spesso trascuriamo, che, certo, perché ci dimentichiamo delle fatiche a cui sottoponiamo i nostri piedi, che sono gravati dal nostro peso, che non sempre è un peso piuma, rinchiuse in calzature più attente alla moda che al loro benessere. Quindi diamo loro un momento di gloria. Che dice? Assolutamente. Il piede va visto come uno strumento fantastico di tipo proprio eccettivo, di tipo sensitivo, cioè serve moltissimo per sentire il terreno, per capire come è il terreno che sto affrontando. È molto diverso se io cammino su un terreno morbido, piatto, con i sassi, con la sabbia. E ricordiamoci una cosa fondamentale a proposito invece di correttezza e di cultura: noi nasciamo piedi nudi, sì, molte popolazioni vivono ancora a piedi nudi, cioè il piede quindi ha un ruolo fondamentale dal punto di vista proprio del rapporto col terreno, e questo non possiamo assolutamente scordarlo. Poi nella nostra cultura ovviamente l'abbiamo scatolato dentro scarpe più o meno comode, ma semplicemente perché in posti più freddi come da noi è praticamente impossibile andare in giro a piedi nudi d'inverno, ma e poi è sporco, e poi ci sono tutte le difficoltà della civiltà. Ma il piede deve essere libero. Ben libero, e deve essere ben curato, e deve essere favorito il suo contatto col terreno, perché ci aiuta a sentire il terreno, è un organo di senso vero e proprio, quindi va molto rispettato e va molto valorizzato. 800 24 00 24, stanno già arrivando le vostre domande al nostro centralino. Ma dottor Respizzi, dato che molti dei problemi derivano dalle calzature, cerchiamo di capire un po' come scegliere le calzature giuste per il nostro piede. Certo. Adesso stiamo entrando in una stagione in cui il piede sarà sicuramente più libero. Certo. Meno ingabbiato. Sì. Per fortuna sì, l'estate da questo punto di vista è amica. Il nostro piede, quindi dicevo, va valorizzato e va utilizzato il più possibile scalzo. Sì. Allora, partiamo anche qui da un presupposto. I nostri figli, quando sono piccolini, 1-2 anni circa, tendono a togliersi tutto e andare a piedi nudi, no? E le mamme si litigano sempre con i bambini: ma rimettiti le scarpe, rimettiti le calze, e questi si mettono a piedi nudi. Proprio perché questa sensazione, questo utilizzo sensitivo del piede è molto stimolante. Quindi più noi adulti cerchiamo di avvicinarci a questo, e meglio è. Sì. Quindi d'estate noi uomini siamo un po' più sfortunati, perché lei mi vedrebbe con i sandali da frate in studio, direi di no, col camice. Dipende da che piede ha, dottor Respizzi. Se ha un bel piede, perché no? Bello e brutto che sia, comunque, bello e brutto che sia il piede, sarebbe l'ideale. Però ovviamente noi maschietti che viviamo a Milano siamo abituati e siamo obbligati a usare scarpe e calza. Sì. Voi donne per fortuna siete molto più libere da questo punto di vista, quindi l'utilizzo di sandali io lo trovo molto corretto. Sì. Il sandalo perfetto, consigliato da tutta la biomeccanica, è però un sandalo molto poco impattante sul piede, quindi diciamo un sandalo da schiava romana. No, per dire, ecco, dalla minenza. E poi se è perfetto, se uno ha anche il piede romano fa pandan. Perfetto, ecco. È fantastico, quindi è anche bello. È chiaro che noi adesso badiamo moltissimo culturalmente all'aspetto estetico del piede, allo smalto, a tutti questi aspetti, ma ancora una volta, se ci fermiamo un attimo a ragionare, pensiamo a popolazioni contadine, banalmente italiane, c'è mica bisogno di andare tanto all'estero, le persone vanno in giro a piedi nudi e ci andavano fino a pochi anni fa, e avevano i calli evidentemente, e avevano anche le unghie magari non tanto ben tenute e senza lo smalto. E quindi è proprio un aspetto che noi dobbiamo provare a elaborare dal punto di vista culturale. Quindi va benissimo, se uno va in ufficio con il suo sandalo o con lo smalto, benissimo, sono contento. Mi sembra anche Emanuele Filiberto abbia fatto un selfie ai suoi piedi con lo smalto. Lei mi vuol male oggi, stavo male. Pensando, perché ormai lo portano anche. Senta, dottor Respizzi, noi abbiamo già gli ascoltatori, e sono Luigi da Milano e Giovanni dalla provincia di Piacenza, che hanno chiamato il nostro numero verde. Gli chiedo loro di attendere proprio un attimino, come si dice, dice, perché con il dottor Respizzi vorrei prima fare un po' una panoramica di quello, dei temi di cui ci occuperemo, perché il piede veramente è un organo, e ci dà una miniera di spunti di discussione. Noi abbiamo dovuto sceglierne alcuni. E quindi, dottor Respizzi, facciamo un piccolo sommario degli argomenti barra problemi di cui ci occuperemo oggi. Inizieremo dalle dita, quindi quando diciamo dita molto spesso pensiamo all'alluce e quindi alla famosa cipolla, ma non solo, dottor Respizzi. Assolutamente, la cipolla cosiddetta, l'alluce valgo, è diciamo il fenomeno più evidente di alterazione della meccanica del piede, ma ce ne sono tante altre, ad esempio l'appiattimento trasversale della parte anteriore del piede, che si chiama avampiede piatto, la presenza di dita griff, cioè le dita che sono un po' rattrappite, ad artiglio. Eccetera eccetera, quindi ce ne sono molte, presenza di un calcagno valgo, di un appiattimento del piede, insomma ci sono tante patologie che possono colpire questa struttura così complessa, ricca di ossa, di legamenti. Ecco, dalla punta dell'alluce al tallone, passando per la pianta del piede, soprattutto se ci dà problemi nel momento in cui l'appoggiamo, o magari quando camminiamo, oppure se ci dà dolore a riposo. Quindi iniziate a chiamarci come hanno fatto Luigi e Giovanni. Luigi, buongiorno. Luigi, buongiorno Luigi, benvenuto. Posso parlare? Sì Luigi, direi che è arrivato il suo momento. Perfetto, allora io ho 55 anni e sistematicamente da un paio d'anni, quando arriva marzo-aprile, inizio a avere il male ai talloni, più sulla sinistra che sulla destra. Troverei sollievo stare con le scarpe con il tacco un po' alto, quindi col piede abbastanza sollevato, e ho provato a mettere anche delle solette di silicone per cercare di sollevare un po', eliminato i mocassini, ma niente. Diciamo che fino a settembre-ottobre non c'è niente da fare, me lo devo tenere. Soprattutto la mattina appena mi alzo molto. Ecco, bene. Un dolore, Luigi, stagionale che insorge soprattutto al mattino, ho capito bene? Sì. Dottor Respizzi. Sì. E se dovessi anche correre, non è che peggiora. Ecco, a proposito, ecco, Luigi mi dà lo spunto per anticiparvi che oggi parleremo di piede, parleremo anche del piede dei runner, spesso hanno dolore, ma il nostro esperto Fulvio Massini vi aiuterà a capire, vi suggerirà degli esercizi per rinforzare il vostro piede, la vostra caviglia, quindi per mettere le ali ai piedi dei runner, e parleremo anche di piedi dei bambini. Ne accennava prima il dottor Respizzi, spesso si vogliono togliere le calzine, le scarpine, camminare a piedi nudi. Quando i bambini iniziano a camminare, i genitori si interrogano: ma guarda come mette i piedi, al piede piatto. Iniziate pure a prenotare le vostre telefonate, le vostre domande, i vostri dubbi. I nostri esperti ci raggiungeranno, il professor Portinaro, che ci dirà tutto sui piedi dei nostri bambini, e Fulvio Massini per i runner. Intanto, dottor Respizzi, questo dolore stagionale del nostro ascoltatore, da che cosa può essere causato? Ho bisogno di sapere una cosa in più, signor Luigi. Luigi c'è ancora o è scappato? Sì, no. Luigi, che bella idea. Il tallone è un osso piuttosto grosso. Il dolore è sotto il piede, è dietro il piede, in che zona è? Allora, se io schiaccio il tallone, è diciamo nella parte più avanti. Cioè più davanti. Non proprio sul fondo, nella parte più... Sotto la pianta praticamente, sotto la pianta del piede. Sotto la pianta dove diventa mollo. Esatto. Allora, quello che lei descrive potrebbe essere il sintomo di una fascite plantare. Quindi non è una tallonite, è un'infiammazione di una fascia che c'è sotto il piede e che unisce la parte anteriore del piede al tallone che invece è posteriore. È una fascia di materiale non elastico che serve, è come un architrave che tiene sul piede e che può essere infiammata cronicamente, e con l'utilizzo del mocassino rispetto magari ad una scarpa più robusta o più morbida invernale salta fuori ogni anno. Quindi io farei degli accertamenti immaginando una fascite plantare, quindi un'infiammazione di questa struttura particolare che è l'architrave del piede. Andiamo a sentire che cosa ci racconta Giovanni, ci chiama dalla provincia di Piacenza, voilà, eccolo a noi. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Buongiorno, io parlo da parte di mia moglie. Sì, quindi allora, ci racconta dei piedi di sua moglie. Sì, allora premetto che fa la OS, quindi cammina per 8 ore al giorno. Sì. Cos'è che fa che non ho la capito? OS. Ah, la OS, perfetto. Allora, lei ha un male sotto al piede, cioè sotto le, appena sotto le dita del piede, la parte dura che c'è sotto. Mm. Allora, con qualsiasi tipo di scarpa lei porta ha il dolore. Lei mi fa fare i massaggi, ma secondo me fa un poco. Volevo sapere cosa lei, lei le fa fare i massaggi, perché Giovanni è piacevolissimo farsi massaggiare i piedi. Tra l'altro, auguri, oggi è il suo onomastico, Giovanni. È vero. A Torino è festa. Tanti auguri, Giovanni. E continua a massaggiare i piedi della, di sua moglie. Ma, dottor Respizzi, vero? I massaggi fanno bene i piedi. Moglie fortunata, se moglie ha trovato fortunata. Un marito che le fa i massaggi ai piedi. Anche perché, lui però. Perché i massaggi fanno bene? Ritorniamo al discorso di prima, perché è un organo di senso. Allora, così come è molto piacevole farsi toccare le mani, è molto piacevole anche farsi toccare i piedi, se non si soffre di solletico, evidentemente. Certo. Perché i piedi sono ricchi di terminazioni sensitive, ci sono delle zone del nostro corpo che sono più sensibili al tatto, no? E quindi è più piacevole farsi massaggiare un piede piuttosto che un pezzo della coscia, ad esempio, no? Dove ci sono meno terminazioni sensitive. Essendo, come dicevo prima, un organo di senso, è molto bello perché evidentemente la fiducia reciproca che c'è tra marito e moglie, come nel caso del, di Giovanni, aiuta al rilassamento e a migliorare la qualità della vita del piede. Perché ha questo dolore? Sta sempre ecco, localizziamolo, perché è un problema ecco, abbastanza frequente. Ha individuato quella zona del piede, no? Noi possiamo localizzare quando ci mettiamo in punta di piedi, no? È lì quella zona, no, Giovanni, ecco. Vero? Sì. È la metatarsalgia, si chiama così in termine tecnico. Brava. Allora, in questo caso è possibile che la signora abbia quello che dicevo prima, la via in piede piatto trasverso, cioè che ci sia un abbassamento della parte anteriore dei metatarsi con un'infiammazione a livello della testa dei metatarsi, che sono delle ossa dentro nel piede. Nel caso di un lavoratore come un OS, bisogna tenere presente anche un altro aspetto che è legato alla medicina del lavoro. Sì. Questi lavoratori devono utilizzare delle scarpe da lavoro specifiche, no? Evidentemente. Sì. Quindi io consiglierei alla signora di consultarsi con il medico competente, il medico del lavoro della struttura dove lavora, per eventuale prescrizione di una scarpa idonea con un plantare di sostegno di questa parte anteriore. Io penso che sia più un tema di questo tipo piuttosto che di una strana patologia della signora, ma trovare la calzatura adatta per il lavoro che la signora ecco, fa. Dottor Respizzi, un consiglio che lei si sente di dare a tutti coloro che passano per lavoro tante ore in piedi, cioè se avvertono un dolorino nella fascia dei piedi, nella parte anteriore del piede e comunque devono stare per lavoro in piedi tante ore, forse un plantare, ma fatto su misura. Esatto. Questo. Sì, esatto. Perché un ascoltatore ci diceva, ho avuto sollievo, il primo ascoltatore, mettendo, sai che ci sono in farmacia quelle specie di rialzini di silicone? Certo. Ce li ha presenti? Sì, servono o buttiamo i soldi? Servono sicuramente, ma la differenza è tra un abito fatto su misura e un abito standard. Però non tutti possono prendersi. Ovviamente, quindi va bene anche un rialzo di silicone piuttosto che un'imbottitura di questo tipo standard, diciamo quelli che si trovano nei negozi già preconfezionati, se si ha beneficio, perfetto, abbiamo risolto la cosa. Nel caso di una persona che però lavora per tante ore in piedi e in particolare ci sono delle norme, delle leggi che tutelano i lavoratori, che prevedono la scarpa da lavoro, pensi gli operai, pensi sì, certo. Persone che sono in catena di montaggio, in quel caso è proprio dovere dell'azienda fornire il lavoratore del supporto adatto, del plantare adatto, quindi è proprio un tema che coinvolge direttamente il medico del lavoro. Io ci starei piuttosto attento perché questo è un punto sensibile del corpo. È un punto sensibile del corpo che, se trascurato, dottor Respizzi, può portare a mal di schiena? Può portare a mal di schiena, mal di ginocchia, mal di anche. E può fare in modo che la persona cominci a camminare male, cominci a consumare la scarpa da un lato invece che dall'altro, e quindi è un circolo vizioso che non può che aggravare la situazione. Quindi bisogna starci un po' attenti. Ecco, dottor Respizzi, può consumare la scarpa da un lato piuttosto che da un altro. È molto semplice guardare le nostre scarpe, le suole delle nostre scarpe, e chiamare l'800 24 00 24, perché ci danno indicazioni del nostro modo di camminare, del modo in cui appoggiamo i piedi. piedi. E intanto che un ascoltatore mi manda un messaggio dicendo che sta facendo un pediluvio con sale e acqua fredda e vuole sapere da lei, dottor Respizzi, se è utile per la circolazione. Ci piace. Noi andiamo a sentire alcune delle domande che abbiamo formulato insieme al dottor Respizzi per stimolarvi a pensare ai vostri piedi e a sentire che cosa vi dicono, quali segnali vi mandano, per chiamare il nostro numero verde. Il piede ti fa male in appoggio, quindi quando cammini o carichi il peso, oppure anche quando sei a letto, comodamente disteso in poltrona o seduto alla scrivania. Quando ti lamenti dei tuoi piedi, lo fai perché avverti dolore nella parte anteriore, quindi nella zona del metatarso, o invece sono le dita o un dito in particolare a farti vedere le stelle. Anche per te, come per Achille, il tallone è un punto delicato, dolente? Ma il dolore che avverti è fisso o si irradia? Aumenta con il carico o è sempre uguale? Diamo un occhio anche alle dita. Anche se non le trovi belle, raccontaci se sono al loro posto e hanno una forma adeguata. Cuore e denari. Piede sinistro, piede libero, piede di piombo, piede di guerra, piede in due scarpe, in punta di piedi, piede in testa, palla ai piedi, pestare i piedi, in punta di piedi. Adesso tocca a voi, provate a formulare un piccolo testo di senso compiuto che contenga quanti più modi di dire possibile sui piedi. 800 24 00 24, potete scrivercelo al 349 238 6666 o postarlo su Facebook. Dottor Respizzi, è ancora in linea con me? Sì. Questa mi piace. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di guardarsi le suole delle scarpe. Sono arrivati tantissimi messaggi. Voglio leggerne uno tra tanti. Valeria da Udine ha notato che quando cammina si consuma in maniera eccessiva la parte interna dei tacchi delle scarpe. Dipenderà dalla postura, si chiede. E questa cosa a lungo andare può crearmi problemi ai piedi o alla schiena? Previdente, usa i tacchi perché a noi i tacchi piacciono, però certo. Si preoccupa anche un po' Valeria. Allora, se quindi la rassicuri lei, dottor Respizzi. Se Valeria consuma la parte interna del tacco, significa che tende col piede a cadere verso l'interno, quindi probabilmente Valeria ha un calcagno valgo, cosiddetto valgo, cioè un calcagno che tende ad andare verso l'interno. Sì. E quindi questo è ovviamente da valutare clinicamente. Di solito il nostro calcagno è messo perfettamente in asse, perpendicolare rispetto al terreno. Se piega un po' verso l'interno è valgo, se piega dall'altra parte si chiama varo. Quindi il piede di Valeria probabilmente tende un po' ad andare verso l'interno, cioè la parte mediana va verso l'interno. Quindi ha ragione di occuparsi del suo piede, perché in questi casi di solito è sufficiente una piccola solettina, un piccolo rialzo all'interno della scarpa che raddrizza, che corregge questo valgismo, per avere una miglior postura dell'arto inferiore, della colonna, eccetera, e anche per non consumarsi le scarpe. Dottor Respizzi, molti ascoltatori mi scrivono che le loro dita stanno cambiando, uno in particolare mi scrive, non si firma, che ha le dita dei piedi ricurvi all'ingiù. Le dita dei piedi, lo sappiamo, possono cambiare forma, è un processo per alcuni lento ma inesorabile. Si può prevenire? Quale può essere la causa? Può essere la calzatura o un fattore genetico? Diciamo che la vecchiaia, banalmente, cioè non è che noi rimaniamo sempre uguali, come tutte le altre parti del corpo anche il piede invecchia, quindi non è genetica, sono processi degenerativi che fanno parte, ahimè, del passare del tempo. E siccome il piede è sollecitato tantissimo per tutta la vita, ci camminiamo su continuamente, come dicevamo anche all'inizio, magari abbiamo anche qualche chilo di più, tende a modificare la sua forma, che si adatta alle nuove condizioni, ma soprattutto, così come cambia la forma della mano, piuttosto che la nostra postura, ci ingobbiamo magari un po' di più. Quindi non dobbiamo spaventarci di questo. L'importante è che non sia repentino il cambiamento, che non sia improvviso e soprattutto che prendiamo tutte le precauzioni perché non ci siano delle accelerazioni di queste modifiche che, ripeto, sono da considerare nella norma fisiologiche. Andiamo da Rosetta, ci chiama dalla provincia di Pesaro. Buongiorno Rosetta, benvenuta. Pescara, l'hanno spostata a Pesaro, l'hanno trasferita d'ufficio. Buongiorno. D'accordo. Siccome non riesco ad avere il trasferimento da scuola. Vede, glielo diamo noi. Rosetta, mi racconti. sono un insegnante di educazione fisica. Sì. Premetto che io da sin da ragazzina ho guardato sempre i miei piedi in maniera molto critica, cioè per me i piedi sono un feticcio. Se io vedo una persona con dei sandali eccetera, la prima cosa che guardo sono i piedi. Purtroppo è questo. Sì. Allora dico, io ho un piede con una pianta piuttosto larga, però un'arcata plantare accentuata. Sì. Quindi diciamo normale, non nel senso di, adesso non mi ricordo il termine, quelle arcate plantari che sono... Dottor Respizzi vuole aiutarla, cavo, un cavo. Piede cavo. Va bene, ma quindi Rosetta, lei ha un piede che definisce normale, che problema le dà il suo piede? Allora... circa adesso ho 59 anni, verso i 26 anni sì. Cominciai ad avvertire un dolore forte al quinto dito. Sì, però arriviamo agli anni più vicini, perché sennò non riesco a dare la linea agli altri ascoltatori. Si è deformato, si è avvicinato, si è accostato agli altri. Sì. Adesso qualsiasi tipo di calzatura è da fastidio. Certo. Mi viene un dolore enorme al quarto. Tra il terzo e il quarto dito, Rosetta? Il quarto dito di tutti e due i piedi, ma proprio sono delle fitte lancinanti. Che arrivano in testa. Dottor Respizzi, che cosa succede a Rosetta? Intanto direi che non è vero che c'ha proprio un piede perfetto come dice. Vabbè, ma lei sia un po' garbato, dottor Respizzi. Sono, su, sai, un piede non è proprio perfetto, non ma d'altra parte la bellezza è la somma delle piccole imperfezioni. Ma io non parlo di aspetti estetici, aspetti funzionali. No, sto scherzando. Se questo quarto dito assume una forma diversa, si sovrappone agli altri, ha difficoltà a starci nelle scarpe, è perché evidentemente ancora una volta c'è un crollo della volta plantare anteriore, è sempre quel discorso dell'avampiede, piatto sì. trasverso. Allora, abbassandosi le teste metatarsali, ci può essere un minor spazio per le dita, sì. che ovviamente sono una in fianco all'altra, quindi c'è una tendenza magari a spostarsi, a sovrapporsi. E questo è proprio dovuto nel piede cavo, come probabilmente Rosetta ha, a un tracollo, diciamo, della parte anteriore del piede, a un crollo della volta plantare anteriore. In questo caso si può migliorare creando spazio per i piedi, per le dita dei piedi, tra le dita dei piedi, con delle solette plantari ancora una volta, per fare in modo che la forma del piede ritorni il più possibile normale, che ci sia una miglior distribuzione dei carichi del peso corporeo sul piede. Quando i bambini fanno c'è un topolino. Si sta muovendo. Cammina. Punta diritto verso i miei giocattoli. Beh, bene. Ma, momento, forse è meglio che le spieghi cosa sono i giocattoli prima che li distrugga. È già arrivata. Tutti i bambini fanno Ecco, siamo arrivati a loro, ai piedi dei nostri bambini, e con loro arriva anche il professor Nicola Portinaro, direttore della clinica ortopedica dell'Università degli Studi di Milano. Professore, bentornato e buongiorno. Buongiorno a voi. Stanno già arrivando le telefonate dei genitori per lei, ma intanto, professore, nei primi anni di vita noi mettiamo le basi, è il caso di dirlo, per la salute futura dei nostri piedi e quindi anche della nostra postura. Per questo, per questo è importantissimo il modo in cui noi appoggiamo anche per le prime volte i piedi per terra. Beh, diciamo che i piedi hanno questa capacità di sopravvivere nonostante noi cerchiamo di interferire. Sì, in tutti i modi, come diceva modi. Il dottor Respizzi. Quindi saluto anche il collega e amico Respizzi, che credo sia in ascolto. Diciamo che i piedi dei bambini e in generale i bambini non sono degli adulti piccoli, per cui delle alterazioni o delle osservazioni che noi possiamo vedere nei piedi dei bambini e notare di fatto possono non essere patologiche, come invece vi ha spiegato il dottor Respizzi, possono essere nell'adulto. Certo. O anzi sono nell'adulto. Il piede già dalla vita fetale nasce piatto o pronato valgo, come ha spiegato il collega, e pian piano matura con una sua storia naturale poco modificabile da interferenze esterne. a meno che non ci siano poi delle patologie, allora questo certo. È tutto un altro discorso. Quindi, professore, fisiologico il piede piatto nei bambini, almeno sino a 5-6 anni i loro piedini restano un po', insomma, come dei piccoli ferri da stiro. Ecco. Beh, diciamo che per una questione di leve meccaniche, quando la tibia è ancora corta e i muscoli che si attaccano sulla tibia poi sono quelli che gestiscono il piede come se fosse una marionetta ben bilanciata, all'inizio il piede ha una conformazione che serve a dare il massimo della biomeccanica per quell'età e per quella lunghezza. Quindi, ovviamente, sì, mi scusi, prego. Professore, mi faccia capire bene. Quindi, come genitori, noi fino ai 5-6 anni del bambino rimaniamo in attesa o dobbiamo notare alcuni segnali che possono magari suggerirci di portare il bambino dal medico a farlo controllare? Come spiegava il dottor Respizzi, il calcagno valgo. Sì. È un calcagno che è fisiologico nel bambino. Sì. Ovviamente è molto difficile fare quelle che io definisco, è pericolosissimo, quelle che io definisco le diagnosi da corridoio. Sì. Senta, mio figlio ha il piede piatto, professore, cosa devo fare? È molto più, si fa più facile, si fa meno brutte figure a vedere il piede e visitare certo. Il bambino. Di fatto, un calcagno molto valgo, con l'arco del piede molto schiacciato in un bambino che ha 2, 3, 4 anni, potrebbe valer la pena di meritare un controllo. Certo. Di fatto un piede che ha un calcagno valgo, che ha un arco un po' schiacciato, ma è un piede che non salta l'occhio, oserei dire, di una madre, è un piede che non è quasi mai patologico. Perché le mamme ci vedono lungo. Ma le mamme ci vedono lungo, sono un po' pesanti da sopportare, a parte gli scherzi. Allora, ma sa che Carmelo Lauricella... Ma la mamma che è preoccupata è perché comunque vede qualcosa che non va. Cuore e denari. Ed eccoci qua, siamo tornati insieme in linea con noi il professor Portinaro e il dottor Stefano Respizzi. Professor Portinaro, voglio leggerle un messaggio di Piera che ci scrive su Facebook. Un bimbo che inizia a camminare, 10 mesi, è meglio che cammini a piedi nudi o deve mettere le scarpine? Se sì, che tipo di scarpina? Va bene un sandaletto? Domanda complessissima. Direi che i piedi nudi, si sa, aiutano il bambino ad avere una percezione più diretta di quello che è il terreno, quindi di quello che sarà il suo futuro appoggio. I piedi nudi servono per imparare a camminare quando il bambino comincia a stare in piedi. Di fatto poi piedi nudi e scarpina la differenza non è grandissima. La scarpina meglio se un po' contenitiva, specialmente all'inizio, ma non deve essere troppo rigida perché altrimenti limita l'inizio della deambulazione, che ovviamente è completamente diverso di un bambino che cammina da 4, 5, 6 mesi. Andiamo a Danila che ci chiama da Trento, l'800240024, è una mamma, professor Portinaro. Attenzione. Attenzione, Danila. Sì, e tutte noi. Vada Danila. Sono proprio una mamma di quelle... Lo tormenti. Ovviamente mamma sto scherzando, perché io ho ancora una mamma per fortuna. Adesso e ho una moglie da. E tre figlie femmine. Ecco, per cui... stasera quando torna a casa vede sua mamma. Danila, a lei. Sì, allora io ho una figlia di 8 anni, l'ho portata l'anno scorso a una visita fisiatrica perché ha una camminata che peraltro fa il paio un po' con il suo carattere, con le punte molto accentuatamente rivolte verso l'esterno. Mm-hmm. E il fisiatra non ha rilevato nessuna alterazione né a livello dell'articolazione dell'anca né delle ginocchia, l'ha definita come una e tantomeno a livello del piede, l'ha definita come comunque una postura che lei tende a tenere. Abbiamo messo nel periodo invernale, finché le scarpe sono state chiuse, un plantare ovviamente realizzato su misura, e il pediatra mi ha raccomandato di dire sempre a mia figlia di ricordarle di camminare con le punte diritte. Ovviamente sono diventata una mamma molto pesante. Sì, perché non mangiarti le unghie, non toccarti i capelli, cammina con le punte dritte. Mamma mia. Ecco, lo so. Mia figlia è un po' infastidita da questa cosa. Mi chiedevo se rispetto a questo ci potessero essere, cosa che il fisiatra io non gli ho chiesto e lui non mi ha suggerito, ma magari degli esercizi di ginnastica o comunque qualcosa che possa aiutare al di là della mia cammina con le punte dritte, insomma. Sì. Grazie, allora, guardi, Danila. Il discorso può essere molto semplificato, ma può essere anche molto complesso. Di solito, molto frequentemente, in una ragazzina piccola che cammina con le punte in fuori, il problema, il primo movens, è che il tendine di Achille è un pochettino corto, quindi il piede tende a mettersi, uso termini semplici, bravo, girato in fuori per compensare questo tendine che non permette un movimento sufficiente. Sì. Da questo, sia a livello del ginocchio, specialmente a livello dell'anca, se persiste si può avere che la conformazione dell'anca diventa maggiore in extra rotazione che non in intra rotazione, come invece dovrebbe essere ed è più frequente nei bambini di questa età. Sì. Il dire, secondo me, ma non vorrei essere scortese col collega perché poi credo che la mia sia semplicemente un'opinione che vale tanto come quella degli altri, e il dire cammina dritta è come dire una macchina vai dritta se ha le ruote storte, è un po' difficile. Uno se ha le gomme montate che non vanno bene può tenere il volante dritto ma la macchina non va dritta lo stesso. Quindi di fatto gli esercizi, per finire e concludere per la sua domanda, gli esercizi di fatto sono quelli per cercare di allungare un eventuale tendine un po' corto che permetta al piede di appoggiarsi meglio e che permetta alle anche di muoversi meglio. È una cascata dal fondo a in cima. Quindi però questi esercizi, se ben impostati, possono aiutarla. Quindi un po' di ginnastica aiuta. Prima di salutarla, le raccolgo alcuni messaggi che sono arrivati a proposito proprio del modo in cui i nostri bambini, soprattutto quelli piccoli che iniziano a camminare, no, fanno andare i piedini. Ci sono bambini che camminano in punta di piedi. Allora, all'inizio della propria vita il camminare in punta di piedi serve per spostare in avanti il baricentro e quindi è un sistema di comodità per imparare a camminare e fare i primi passi. Se questa cosa persiste, può essere o un tendine di Achille corto, come abbiamo visto probabilmente nella ragazzina, può essere un problema anche importante o meno importante, ma comunque che riguarda la sfera neurologica centrale periferica, più spesso può essere un vizio, come si dice, di camminata. I camminatori in punta di piedi esistono, anche perché più uno cammina in punta di piedi, più il tendine e il muscolo si accorciano, più e uno cammina in punta di piedi. È un po' un gatto che si morde la coda. Esattamente. E invece quelli che camminano con le punte all'indentro, così rispondiamo a Sara? Beh, Sara, quasi tutti i bambini normali camminano con le punte all'indentro. È molto meglio avere un bambino che cammina con le punte in dentro che non con le punte in fuori, senza voler terrorizzare la mamma prima, ma un piccolino che cammina con le punte in dentro ha semplicemente il femore e la tibia che sono ancora arrotolati come erano nella pancia della mamma. Difatti noi vediamo il piede, ma il piede di solito, e va visitato, è un piede che è dritto. Certo. Mentre quello che gira in dentro è tutta la parte superiore. Professore, grazie per essere stato con noi. Siamo stati bene. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie. Arrivederci. Dottore Spizzi, invece torniamo a noi. Abbiamo Claudia che ci chiama da Genova. Buongiorno Claudia, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Piedi piccoli, problemi piccoli. Piedi grandi, problemi un po' più grandi. Non è detto, vero dottore Spizzi? No, non è detto. Claudia, che succede? Ecco, io vorrei sapere, io la lucevalgo a entrambi i piedi, molto più accentuato al piede destro, dove ho anche il dito martello, il dito successivo alla luce martello. Mi chiedo, quando è il momento di farsi operare? Esiste, è necessario farsi operare? Esiste un momento in cui è essenziale farsi operare o lo tengo così anche se bruttissimo? Dunque, domande molto complesse e soprattutto che gioco forza hanno delle risposte altrettanto complesse. La deformazione dell'alluce-valgo, di questa deviazione verso l'interno dell'ultimo metatarso, quindi quello che sporge in fuori, che si vede arrossato, no? Che sembra una cipolla, è legato al fatto cipolla di tropea. Esatto, di tropea rossa magari anche. È legato ancora una volta all'allargamento delle altre teste metatarsali, quindi all'avampiede piatto trasverso. Ci sono persone che più di altre purtroppo hanno questa tendenza può essere aggravata dall'utilizzo dei tacchi, ma ricordiamoci che c'è anche nel maschio, quindi non è per forza di cose la scarpa con il tacco l'imputata, diciamo. E quindi questa è una deformità del piede conseguente all'allargamento delle teste metatarsali. E quindi per forza la parte esterna, in questo caso la parte mediale del primo dito, si piega e il primo dito vira verso l'esterno, quindi fa come una specie di angolo, no? È brutto anche esteticamente. Quando farsi operare e se farsi operare? Farsi operare, dalle mie parti si dice c'è sempre tempo, quindi io già così mi sembra di dare un'indicazione. Di solito ci si fa operare quando il dolore è molto intenso e quando il dolore è tale da impedire di camminare. Quindi finché il piede riesce a reggere un equilibrio per cui queste due caratteristiche, dolore e cammino, sono conservate, secondo uno me si può si tiene le cipolle là le cipolle. O le cipolle. Dottor Respizzi, noi dobbiamo andare a sentire il GR, andiamo insieme. Aggiungo una domanda di Alba Chiara, che è questa: la cipolla operata può ritornare? No, assolutamente no. Ok, quindi chi intende affrontare l'operazione, la cipolla, insomma, a luce valgo, lo corregge in modo definitivo? Sì. Ok, GR e subito dopo insieme al dottor Respizzi e insieme ai runner arriva tra poco anche Fulvio Massini per la ginnastica, per mettere le ali ai piedi. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati, una puntata che prende spunto da una notizia curiosa che fa un po', dottor Respizzi, accapponare la pelle. Negli Stati Uniti e in Inghilterra ci sono donne disposte a farsi tagliare pezzetti di piede pur di entrare in scarpe da favola, si ispirano insomma alla favola di Cenerentola. Noi oggi invece al dottor Respizzi facciamo una specie di corso accelerato di manutenzione dei nostri piedi e dottor Respizzi, siamo arrivati alla pianta per parlare di quel dolore che spesso parte da sotto il tallone e va ad investire tutta la pianta del piede sino ad arrivare alle dita. Tra l'altro, dottor Respizzi, lei sa cosa ho letto? Che sotto la pianta dei nostri piedi vivono una serie di funghi diversi, ce ne sono di, immagini un po' quanti? Tantissimi, immagino decine e decine di questi tipi di funghi, no? 200 almeno, li hanno misurati questi ricercatori di un'università del Maryland. Alcuni di questi funghi non danno problemi, altri invece procurano le micosi, di cui parleremo magari in un'altra puntata. Torniamo a noi, dottor Respizzi, dire un mal di piedi non basta, no? Bisognerebbe aggiungere qualcosa, ad esempio? Assolutamente non basta, perché appunto il piede è uno strumento molto complesso, con 30 ossa circa che lo costituiscono, con tanti tendini, tanti muscoli, eccetera eccetera. Quindi io devo essere molto preciso nell'intervistare il paziente, nel farmi dire dove esattamente c'è il dolore, se c'è, e quando, in che condizioni, notturno, mattutino, mentre cammino, mentre corro, soltanto alla sera, se c'è del gonfiore, se ci sono degli arrossamenti. Quindi c'è un ventaglio enorme di domande che io devo fare al paziente per essere molto preciso e quindi raggiungere ad una diagnosi corretta e quindi poi evidentemente ad una terapia corretta. Ma dottor Respizzi, generalizzando, se il piede ci fa male al mattino, poi dopo i primi passi migliora e poi torna magari a farci male la sera, di che dolore si tratta? Questo di solito è legato a problemi degenerativi, cioè è possibile che questo piede abbia un po' di artrosi. Sì. E quindi il primo carico mattutino è quello che dà più fastidio al piede e quindi si fa vivo, ci dà questo segnale, ci dice ehi, attento che io non ho tanta voglia di camminare. E quindi questo è un po' un segnale di solito di patologie degenerative, come appunto l'artrosi o fenomeni artritici, o anche ad esempio, come abbiamo già detto, il piede con l'alucevalgo. Sì. Che poi una volta che si è scaldato, tra virgolette, che è dentro nella sua scarpa abituale, va e la giornata passa. Insomma. Lei ha detto, se fa male anche la sera, la notte, cioè quando è completamente a riposo, quel tipo di dolore lì che cosa ci dice? Quel tipo di dolore lì ci dice che ci possono essere problemi di tipo vascolare, cioè il piede è molto vascolarizzato, sì. Sotto, in particolare sotto la pianta, ci sono proprio dei plessi venosi e quindi magari ci può essere un po' di ritenzione con una presenza di linfa, una presenza di sangue venoso che rende più turgido il piede e lo rende più dolente. Anche questo è un aspetto sul quale bisogna stare attenti, bisogna lavorarci e in particolare magari prima si parlava dei pediluvi, no? Sì. Per fare una buona ginnastica vascolare bisogna alternare acqua calda e acqua fredda, non solo fredda o solo calda, cioè lo sbalzo continuo da caldo a freddo fa muovere le vene. Sì. E fa in modo che ci sia una spremitura del piede. È tonificante, l'alternanza tonifica. Esatto, l'altra cosa, alla sera ad esempio, prima di andare a dormire, stare un po' con i piedi in aria. Sì. E chiaramente sul divano viene molto comodo, adesso ci sono i mondiali da vedere, uno si mette lì con i piedi nudi per aria, possibilmente puliti, evidentemente, e si guarda la partita e tifa per chi vuole, insomma. Guarderà la partita Alba, che ci chiama dalla provincia di Belluno, 800 24 00 24. Buongiorno a lei, benvenuta. Buongiorno, volevo chiedere al professore, come io guido molto, spesso ho un dolore fisso sul calcagno di destra, verso destra, e sul piede di sinistra sotto l'alluce. Il piede della guidatrice, dottor Respizzi. Ma direi che ormai le automobili sono talmente morbide, talmente ben strutturate dal punto di vista dell'acceleratore, freno e frizione. Che non è sicuramente la causa. Direi ma farei altri accertamenti. Allora, dottor Respizzi, io la ringrazio per essere stato con noi. Noi adesso andiamo di corsa con il prossimo ospite, Fulvio Massini. Grazie per essere stato con noi, per tutti i consigli preziosi che ci ha regalato. Anche i nostri piedi la ringraziano. Grazie, grazie. Arrivederla. Buongiorno a tutti. No! È domenica mattina e io non corro mai di domenica. Perché no? Perché è festa! Quando dici stop ci fermiamo, d'accordo? Ok, stop! No, andiamo, non possiamo certo fermarci adesso, devi perdere ancora 3 chili. Senti, io sono il treno carico di energia e tu sei a bordo. Woo-woo! Eccoci qua, ci siamo arrivati. A volte i nostri piedi si lamentano a ragione perché magari troppo sollecitati, come succede ai piedi dei runner, che stanno già chiamando al nostro numero verde 800 24 00 24. Sono numerosi perché in linea, lo sanno bene, c'è con noi Fulvio Massini. Ciao Fulvio. Ciao Laura, ciao a tutti voi. Che fai correre anche le montagne, si dice di te, no? Riesce a far correre tutto. Consulente per l'allenamento, coordinatore tecnico di Runner World Italia e autore di un libro di cui abbiamo già parlato tante volte, Andiamo a correre. Fulvio, dimmi come appoggi il piede e ti dirò se corri bene. Partiamo da qui, come a dire che l'appoggio fa la differenza. Sì, l'appoggio, come abbiamo detto anche altre volte, non deve avvenire quando si corre, chiaramente. Così come si pensava qualche anno fa con la parte posteriore del tallone, ma deve avvenire con la pianta. Per l'esattezza, il piede appoggia con la parte laterale esterna della parte, diciamo, più avanzata del tallone. Questo è il momento in cui il piede appoggia. Da lì dopo inizia la fase dell'appoggio e inizia la cosiddetta fase di spinta, no? Perché avviene in modo naturale secondo il concetto dello spostamento del baricentro in avanti, per cui non c'è bisogno, come con il vecchio sistema, di dover andare a spingere, ma posizionando il baricentro facendo in modo che si sposti secondo l'idea del filo che ci tira, dopo l'azione di corsa. Ecco, questo del filo che ci tira magari qualche ascoltatore non ha seguito, sai, può capitare, sì, bisogna... di perdersi una puntata di Cuore Denari, è un peccato veniale. Allora, questo filo, che aiuta molto secondo me l'idea anche come impostare proprio la corsa, parte dal un filo immaginario, naturalmente. È un filo immaginario che parte dall'ombelico, sì. E per cui tenendo diciamo il busto leggermente scaricato in avanti, leggermente in avanti, busto anche spalle, si pensa a questo filo che ci tira dall'ombelico e quindi è come se si venisse proiettati in avanti, e questo permette di avere un appoggio in modo corretto, oltre chiaramente a facilitare l'azione di corsa. Allora, abbiamo Fabrizio da Pistoia e Alberto da Parma. Dalle loro domande sicuramente, Fulvio, sarei in grado di dare dei suggerimenti generali ai runner che ci stanno ascoltando. Fabrizio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Sono un appassionato di running da non molto, poco meno di un anno e mezzo, ed io al termine dell'allenamento, soprattutto il mattino dopo, al risveglio, appena scendo dal letto, avverto un fastidio ormai da mesi alla zona del tallone, sia sulla parte dorsale che sulla parte laterale. Non mi sono fermato, sto continuando, oltretutto... Perché i runner non si fermano mai, Perché ci sono sempre nuove gare da preparare. Infatti. L'ultima, forse Fulvio Massini la conoscerà sicuramente, la Pistoia Betone, un ultra trail di 50 km. Fulvio, la conosci? Leggermente. Se la ride Fulvio. Allora Fabrizio, insomma, c'è questo tallone. Esclusivamente con ghiaccio, però non so se possono servire degli esercizi specifici per cercare di alleviare, di rendere meno fastidioso un dolore che peraltro è in, dura pochi minuti durante gli allenamenti, non particolarmente, ma soprattutto dopo un periodo di pausa abbastanza lungo e protratto come una notte di sonno. Allora, grazie Fabrizio per la sua domanda. Fulvio. Lui praticamente sta accusando una tendinosi che probabilmente nella parte inserzionale del tendine d'Achille, non è escluso che ci abbia una borsite, per cui prima cosa farsi subito un'ecografia e andare da un medico sportivo che nella zona di Pistoia ce ne sono, e di Firenze ce ne sono di molto bravi, e lì farci consigliare la via del caso. Chiaramente, visto che la pista da betone è fra il 29, quindi ci siamo, se fa anche qualche giorno di riposo sicuramente li fa sicuramente bene, oltre a continuare a mettere il ghiaccio, che è un'ottima soluzione. Ci sono, ho venduto la pelle, come si dice, prima dell'orso, perché ho detto agli ascoltatori che tu avresti suggerito delle semplici esercizi per potenziare un po' il piede del runner, che deve essere allenato anche e preparato attraverso degli esercizi specifici. Piede, e mi sono allargata, Fulvio, ho detto anche la caviglia, voilà. Sì, giusto, giustissimo. Allora, il primo esercizio semplicissimo da fare, specialmente dall'estate, che si presta bene, è quello di cominciare a camminare sull'avampiedi. In punta di piedi, praticamente. Sì, sull'avampiedi, cercando di appoggiare la parte più larga del piede e camminare. Questo è già un ottimo esercizio. Altro esercizio che dovrebbe fare anche il nostro amico Fabrizio, ci ha chiamato la Pistoia, quello di mettersi su uno scalino con due piedi, tenendolo i talloni in alto. A quel punto lì staccare il piede che non fa male, nel caso pure a livello preventivo uno o due piedi, e scendere lentamente con il piede in appoggio fino ad arrivare all'allungamento. A quel punto lì, quando è arrivato al massimo allungamento, riappoggia anche l'altro piede, si ritira su e ripete l'esercizio. L'importante è scendere lentamente con un piede solo. Ecco, questo è un po' il segreto. Cosa va a potenziare, Fulvio, questo? Questo va a potenziare tutti i muscoli del polpaccio, che sono quelli che sostanzialmente sostengono il tendine d'Achille. Certo. Il tendine d'Achille sappiamo benissimo essere un tendine molto soggetto agli infortuni. Altro esercizio più simpatico è quello, perché i runners in genere non pensano mai ai piedi, pensano a tutto fuori dai piedi, è quello di mettere un calzino in terra e cercare di afferrarlo con le dita dei piedi. Sì. Afferrarlo, tenerlo fermo stretto per 5 secondi, lasciarlo e riprenderlo. Questo è un altro esercizio. Un altro ancora, sempre abbastanza simpatico, è cercare di prendere questo famoso calzino fra le dita dei piedi, proprio abituarsi alla sensibilità delle dita, che in genere non è comune. Che a cui i runner, e non solo loro, non pensano. Un SMS, esatto, ci scrive che consiglia Fulvio quando il piriforme fa impazzire? Lì ci sono degli esercizi specifici che... Intanto lo localizziamo, questo piriforme. Sì, è un piriforme, diciamo, è nella parte alta del gluteo. Sì. Diciamo, è lì. Il piriforme è un altro dei muscoli che ha problemi spesso ai podisti, che hanno difetto d'appoggio oppure che tendono a correre in discesa con il vecchio sistema, cioè appoggiando di tallone. Quindi sono quelli che non corrono col filo immaginario. Esattamente. E quindi fa male il piriforme, che è la chiappa praticamente. Sì, esatto. Ecco, la chiappa del runner. Ecco. Che la si chiappa fa? È la parte alta. E lì cosa si fa? Lì si fa un esercizio che non è semplicissimo da descrivere, comunque ci provo. Uno deve accavallare da schiena in terra, accavallare una gamba sopra l'altra, sì, va bene, con le due mani prendere, diciamo, metterle sotto il ginocchio dove non ha accavallato la gamba, e tirare verso di sé. Chiaramente, senti, la gamba, Fulvio, ma tu non hai una foto di questo esercizio che mi sembra un po' da contorsionisti? Ce lo posti, tra che così rimandiamo i nostri ascoltatori che vogliono evitare questa chiappa dolente, la chiappa alta dolente del runner, vanno sulla pagina di Cuore Denari, si vedono l'esercizio suggerito da Fulvio Massini. Sì, così te ne mando ancora altro, che sono tutte e due molto importanti, ve li mando. Dai, ce li mandi, così loro corrono. Anche il nostro ascoltatore si fa, cos'era la Pistoia? Pistoia Betone. Tu la farai? No, io però sono coinvolto con la Pistoia Betone, perché organizzo il mio carissimo amico da sempre, quindi faremo un convegno il sabato sera. Pensa. Proprio parlando di equilibrio, parleremo di equilibrio nelle ultramaratone. Quindi. Fantastico, bellissimo tema. Intanto se state preparando una gara, 800 24 00 24, andiamo a Parma, c'è Alberto ancora per una domanda. Fulvio, Alberto, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un ex maratonetta, io ho fatto una quarantina di maratone, ormai correre non riesco più, vado in bicicletta, sì, e faccio parecchi chilometri. Le caviglie, io praticamente adesso riesco malamente a deambulare perché ho sempre male alle caviglie, quando presso in salita eccetera, così volevo sapere se si poteva fare dei fanghi, se c'era una soluzione, perché io ho fatto anche una radiografia alle caviglie ma non risulta nulla. Sono non perfette, so se... ma sono dolenti. Fulvio, ti puoi occupare anche delle caviglie di un ex runner, oggi ciclista? Ma sì, le caviglie nel caso suo credo vanno mobilizzate, lui dovrebbe fare degli esercizi di mobilizzazione delle caviglie semplicemente facendo il movimento dell'acceleratore. Sì. Da fare da solo tante volte oppure ruotando la caviglia e utilizzando eventualmente anche un elastico. Lui attacca un elastico anche ai piedi di un tavolino, sì, va bene, lo mette sul dorso del piede e fa questo movimento di tirare su e andare in avanti con questo elastico, e questo sicuramente l'aiuta a rifare acquistare sensibilità e mobilità alla caviglia, che in questo momento probabilmente sono un po' atrofizzate, perché se via in bicicletta la caviglia resta molto ferma e quindi non fa il movimento corretto nella corsa che è più elastico, più dinamico, e con questo sistema dovrebbe. E va bene per chi va in bici, va bene anche per chi corre. Senz'altro. Assolutamente. Senz'altro. Fulvio, aspettiamo le foto degli esercizi, quelli difficili per la chiappa del runner, insomma, ci siamo capiti. Grazie Fulvio. Grazie a voi. Allora, abbiamo parlato di piedi, di caviglie, di tallone, abbiamo molti di voi mi scrivono e hanno ragione che il mal di piedi batte in testa, infatti non vediamo l'ora di toglierci le scarpe appena arriviamo a casa, ma stare in piedi, pensate, aiuta a far funzionare meglio la testa, a sostenerlo è uno studio dell'Università di St. Louis, secondo il quale stare proprio in piedi aiuterebbe a ragionare meglio, ma secondo voi sarà vero? Voi quando dovete pensare, ragionare o farvi venire un'idea, vi concentrate meglio quando siete seduti alla vostra scrivania oppure dovete alzarvi, fare due passi o mettervi all'impiedi? Vogliamo saperne di più e allora abbiamo chiesto al professor Piero Barbanti, neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, di venire in nostro aiuto. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, io sono seduto però adesso. Anch'io, infatti, si spiegano tante cose, verrebbe da dire, no? Sì, lo studio dei colleghi americani è uno studio estremamente interessante, uno studio di psicologi, ma il motivo è semplificabile in due punti. Cosa vuol dire stare in piedi, quindi i piedi come sostegno, e invece i piedi come base per camminare, per il cervello e per l'attività sociale? Prima di tutto, stare in piedi è una chiamata alle armi di vari soggetti neurologici, il cervelletto, le vie che collegano l'equilibrio con l'occhio e con l'orecchio. Diremmo che stare in piedi è un fenomeno molto attivo e mette l'organismo, l'apparato nervoso, nella stessa situazione di pretensione, di preallarme di quando il direttore d'orchestra, prima di cominciare, si gira verso gli orchestrali indicandoli con la bacchetta. Non solo, il cervelletto, che è la base del nostro equilibrio, che sui piedi ovviamente si basa, è collegato alla corteccia frontale, che è la corteccia del problem solving, della soluzione dei problemi. Quindi c'è già una buona base, come si dice in termini medico, fisiopatologica, per capire perché lo stare in equilibrio più che lo star seduti possa attivare la soluzione dei problemi. E poi c'è un secondo aspetto, raramente chi sta in piedi non si muove. E il movimento di per sé viene orchestrato da quegli ispiratori occulti che sono i nuclei della base del nostro cervello, che a loro volta attivano le funzioni affettive e attivano le funzioni cognitive. Ecco quindi che stando in piedi e magari camminando riesco a essere più sveglio, più concentrato, più preso da ciò che sto dicendo. Chi di noi, ripetendo un discorso, una lezione, non l'ha fatto camminando su e giù per la propria stanza? È piuttosto difficile, vero? Eh sì, è meglio concentrarsi allora ancora un po', e quindi io vi invio, intanto che saluto il professor Barbanti ringraziandolo per questa spiegazione. E che cosa devo dire, amici? Alziamoci e andiamo a fare due passi. Grazie al professor Barbanti per essere stato con noi. Domani siamo di nuovo insieme, torna anche Deborah, vi aspettiamo a partire dalle 11. E denari.